di Grifon, né di Origille, e aperta la tetra mi spiega, come ti credo, oh, caro malato, un'anime versilla in quest'orda notte, il vostro scempio e lo scempio d'Orlando, e la tradite, giureranno ai dei. Perciò il maestro Fonio, bravi e barbe, spergione le faremo. E noi descritti del magico soggiorno sono tutti perigli. E come e quando servirne quel valor contro l'inferno? Perciò di noi vedrà quest'emmina in prova che mal confida un cuore fuori dal cielo. Via, Origille, coraggio, al sesso vi belle, quanto vezzo e meltoso gentil pregio, tanto virtù e valor son nobil fregio. E sempre Origille seguitare costante, anche a rischio di vita che pur si spera amante. Ed ora va, che lo maneggi mai, trovai però ben faticoso ed erto il tortuoso calle, per cui senza traspada trovavo ignoto a queste soglie il varco. Ma surlando quest'alma, un rio sospetto ne affievolisce il pristino vigore. E sua sorda presaga, richiamo il tuo cuore,